Sospensione delle esecuzioni capitali, interruzione immediata della repressione violenta delle manifestazioni e apertura di un dialogo con i manifestanti. Sono le richieste di Roma a Teheran che il ministro degli esteri Tajani ha presentato questa mattina all'ambasciatore designato iraniano. La decisione di dar vita ad esecuzioni capitali nei confronti di giovani manifestanti naturalmente per noi è una linea di non ritorno. E ha ricordato che non è una questione di ordine pubblico uccidere una bambina di 12 anni, una bambina di 14 e un ragazzo di 17. Il 17enne è Meherdad Malek, è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. Il ragazzo stava tornando a casa con un amico. Sono morti allo stesso modo Saha, di 12 anni, suo padre e il piccolo Kian, di 10 anni. A livello politico avevamo già inviato dei segnali, sottolinea Tajani, come il rifiuto di un bilaterale con il ministro degli esteri iraniano, segnali che il regime non ha voluto cogliere. A meno di 4 mesi dall'inizio delle proteste si moltiplicano le condanne a morte. 100 persone sono in arresto e rischiano l'impiccagione per reati di inimicizia contro Dio. E mentre tante donne continuano a sfidare la dittatura teocratica togliendo il velo, ultima la campionessa Sara Kadim durante i mondiali di scacchi in Kazakistan, tante altre si piegano al regime dei mullah. Questa donna con il velo minaccia un'altra che non lo indossa di filmare tutto e informare la polizia. Del resto tutto ha avuto inizio così il 16 settembre, giorno in cui la 22enne Mahsa Amini è stata arrestata e picchiata a morte per aver indossato male l'hijab. Abusi di potere su uomini e donne in detenzione, violenze inaudite, giovani innocenti messi a morte. È una rivoluzione che potrebbe cambiare la storia del paese.